Riflessioni da Marte. A vederla da quassù, da Marte, la penisola italica procede abbastanza vistosamente a due velocità, ma non si tratta di questioni di motori, tantomeno motori Fiat. No, si tratta nemmeno di punti cardinali, no, il nord, il sud, questione meridionale, questione settentrionale, no, non è questo. Sono proprio due modi di procedere. Da una parte si celebra l'elogio della lentezza e dall'altra parte si celebra l'elogio della durezza. Con questa seconda procedura, l'elogio della durezza, che avanza con una certa celerità, bisogna dire, vengono elargite, per così dire, a chi le paga, tasse, imposte, si producono migliaia di esodati, si dice no per esempio allo stanziamento necessario ai pazienti malati di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, e alle loro famiglie, no? Sull'altro versante invece, quello che vede l'apoteosi dell'elogio della lentezza, si lascia indolentemente che i privilegi restano saldamente in mano a chi ce li ha, che le potenti lobby con qualche capriccio riescano ad autoconservarsi intatte nei decenni come mummie egiziane, che i parlamentari, dopo aver più volte annunciato con risolutezza di voler di dimezzare, restino in numero identico, con identici emolumenti. E sempre coerentemente con l'elogio della lentezza, il Consiglio dei Ministri decide, dopo 9 anni di approfondimenti e di studi, di prorogare i termini per l'approvazione del progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina per fare verifiche sulla fattibilità dell'opera. E in aggiunta, visto che, assecondando una lentezza infinita, anche i partiti defunti continuano a gestire milioni di euro, perché, tanto per cominciare, il governo, con un po' di rapidità, non comincia a prendere il prelievo di solidarietà per sostenere gli esodati proprio da lì? Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, bene amati soldi, perché chi tanti soldi vive come pascià e piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, vera babbe praschi, ti danno donne, whisky, saluti, figli maschi, perché chi tanti soldi vive come pascià e piedi caldi se ne sta.